Noi non possiamo esserne complici, e con questa frase insomma riprendiamo il nome di un gruppo, di un collettivo che ha un blog su internet da cui abbiamo preso anche alcuni materiali, in particolar modo una sorta di rassegna stampa anche rispetto insomma ad altre violenze, abusi perpetrate e compiuti da uomini in divisa. C'è anche un bel volantino firmato dalle Mai Più Schiave che venne scritto in concomitanza della notizia di una donna trentenne violentata da alcuni carabinieri in una caserma di Roma al Quadralo qualche anno fa, che si chiamava Stupratore in divisa, marce sono alcune mele o tutta la piantagione, ed è insomma proprio qui che sta anche il perno del discorso che vorremmo affrontare oggi. Naturalmente dal nostro punto di vista non si tratta di casi isolati, non si tratta di mele marce, ma si tratta di tutto un sistema che agisce violenza sui corpi delle donne. Adesso insomma nel corso della mattinata qua e là vorremmo rendervi conto di quanto stiamo dicendo. Abbiamo fatto una piccola rassegna stampa di casi che sono successi negli ultimi due o tre anni, che danno bene l'idea, come dicevamo in apertura, di quanto la violenza sia legata alle divise, del monopolio quindi statale della violenza anche in tempo di pace, perché non sono casi che si riferiscono a stati di guerra ma si riferiscono al territorio italiano, di atti e misfatti compiuti da vigili urbani, carabinieri, poliziotti, finanzieri, tutti naturalmente ai danni di donne. Sono spesso accompagnati insomma anche da forme di ricatto, perché dopo la prestazione sessuale insomma vengono promessi per esempio alle migranti i permessi di soggiorno, alle prostitute di uscire presto dal carcere, eccetera eccetera. Ne vediamo insomma alcuni adesso e poi altri nel corso della mattinata. Dall'ANSA di Catanzaro, un ispettore della polizia penitenziaria è stato condannato ad un anno e otto mesi per violenza sessuale nei confronti di una dottoressa impegnata nella casa circondariale di Catanzaro. Nell'agosto del 2009 la vittima presentò una denuncia agli agenti della squadra mobile di Catanzaro, sostenendo che l'ispettore della polizia penitenziaria, mentre entrambi erano nella casa circondariale, aveva tentato di baciarla e palpeggiarla. Dall'ANSA di Ancona, un tenente dei vigili urbani in servizio è accusato di tentate concussioni anche di tipo sessuale nei confronti di giovani straniere che in aula avrebbero confermato le accuse. Il vigile avrebbe fatto intendere alle donne che, se fossero state accomodanti con lui, sarebbe stato più facile ottenere il certificato di residenza, necessario per il permesso di soggiorno. Dalla Repubblica di Palermo, aprile 2011. Un maresciallo dell'esercito è stato arrestato con l'accusa di aver abusato della nipotina di 12 anni. L'indagine della procura dei minorenni ha preso il via dopo che la piccola ha scritto alcune lettere ai compagni di scuola raccontando le violenze. Giulia ha raccontato di quel soggiorno in casa in cui lo zio e il cugino abusavano di lei. Ha raccontato la sua solitudine, il suo disagio e la sua paura. La bambina l'aveva detto anche alla sua mamma, ma è stata messa a tacere per evitare una tragedia familiare. Da un servizio delle Iene del 17 marzo. Una madre denuncia un uomo che, tramite internet, molestava, faceva proposte oscene a sua figlia di 11 anni, masturbandosi in webcam o inviando le foto pornografiche e via discorrendo. Quest'uomo che lavoro fa? Il carabiniere. Dal Secolo di Genova, sesso in cella per 10 anni. Una detenuta dal 2001 al 2007 ricorda che sin dai primi tempi, la notte, sentiva che venivano aperte delle celle e le detenute uscivano per poi rientrare dopo qualche ora. Non riusciva a vedere chi venisse ad aprire, ma tra le detenute stesse si diceva che le donne andassero a consumare rapporti sessuali con le guardie. Si scopre che per anni decine di recluse avrebbero dovuto concedersi all'ex direttore Giuseppe Comparone, oggi in pensione, e forse ad alcuni agenti, consumando rapporti sessuali nelle cucine, in alloggi privati, in auto e persino in un boschetto. L'unico obiettivo delle vittime era garantirsi un permesso in più o migliori condizioni dietro le sbarre. Milano, ispettore di polizia, ad aprile è stato sospeso dal servizio quando è risultato indagato perché percepiva in nero un canone d'affitto da stranieri clandestini dediti alla prostituzione, mentre a giugno è stato arrestato con l'accusa di aver violentato un trans brasiliano al centro di detenzione ed espulsione di Via Corelli. È stato assolto in Cassazione a maggio 2012. Ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato l'ispettore Vittorio Addesso, accusato da una nigeriana di averla molestata mentre era ospite del centro di identificazione ed espulsione di Via Corelli nell'agosto 2009. Siti web per escort, 3 condannate, 1 anno un poliziotto. L'agente, secondo l'accusa, si occupava degli aspetti informatici di uno dei siti. Altri 2 gestori di portali per l'offerta di accompagnatrici sono stati condannati a 2 anni, tutti assolti dall'accusa di sfruttamento della prostituzione e condannati per il solo favoreggiamento. Roma. Un maresciallo dell'arma ha sparato alle figlie di 13 e 15 anni, uccidendone una, e poi si è suicidato per dissapori familiari. Ecco, chiudiamo con questa prima parte di rassegna stampa, ci ritorneremo poi ancora nel corso della mattinata con un fatto che è capitato proprio qualche giorno fa a Como, il 13 ottobre 2012. Prima di leggervelo vorremmo far notare che abbiamo tenuto il linguaggio che hanno utilizzato i giornali, quindi le notizie non sono state riscritte da noi, ne abbiamo infatti letto la fonte appunto per quello, quindi anche quando insomma si è detto dissapori familiari o quando si sono utilizzati altri termine perché sono stati ripresi insomma pari pari dai giornali che, come sappiamo, insomma, quando si parla di violenza maschile sulle donne hanno un linguaggio preconfezionato molto particolare, si parla di gelosia, di impeti passionali, di dissapori familiari e non si vanno mai insomma a ricercare le cause vere che stanno dietro alla violenza maschile sulle donne. Dicevamo, chiudiamo questa prima parte di rassegna stampa con la notizia di Como. Anche qui vorremmo sottolinearvi, farvi notare il linguaggio che viene utilizzato, in particolar modo nei titoli. Si parla di un ex agente che è stato sorpreso dai suoi stessi ex colleghi in un parcheggio appartato a Ponte Chiasso, ai lati di via Bellinzona, appunto a Como, mentre sulla sua auto stava avendo un rapporto sessuale con una ragazzina di soli 15 anni. Già così, insomma, sembra che si tratti di una situazione consenziale. Il titolo è "Sesso in auto con la minorenne in camporella con la ragazzina". Insomma, viene utilizzato davvero un linguaggio così divertente e scanzonato, come se i poliziotti avessero trovato 2 ragazzini a limonare dentro un'auto. Invece si trattava appunto di un ex poliziotto di 55 anni che evidentemente stava abusando di una ragazzina di soli 15 anni. Ancora continua il giornale parlando di atteggiamenti equivoci che ci sarebbero stati in macchina con questa quindicenne comasca. I 2 si sarebbero conosciuti tramite chat, lui si è spacciato per ventenne eccetera. Il poliziotto, naturalmente, neanche a dirlo, avrebbe cercato di giustificarsi sostenendo che la giovane era consenziente. I 2 appunto si erano incontrati per conoscersi dopo questo incontro in chat e poi c'è stato il controllo degli ex colleghi e l'arresto. Il GIP lo interrogherà per decidere se convalidare il fermo, ma insomma questo poco ci importa. All'interno di questa prima parte di rassegna stampa si è parlato anche della vicenda di Joy e di Vittorio Addesso, ci ritorneremo naturalmente nel corso della mattinata. E molte naturalmente di queste violenze e di questi abusi avvengono proprio all'interno dei CIE, dei centri di identificazione o di espulsione, oppure nelle strade, nelle città, ma a farne le conseguenze sono spesso donne migranti. C'è stato insomma qualche anno fa un cancan pazzesco, in particolar modo sul pacchetto sicurezza, che avrebbe dovuto salvaguardare le donne bianche occidentali per le strade italiane, avrebbe dovuto salvaguardarle da questi immigrati stupratori. C'è stata una campagna istituzionale e mediatica in sostegno al pacchetto sicurezza, che è stata tutta costruita sull'equazione razzista di clandestino stupratore, ma in realtà sappiamo che la realtà è ben diversa, perché le profughe respinte alle frontiere e rimandate in Libia subiscono stupri e terribili violenze nei campi di concentramento libici finanziati coi soldi italiani, e intanto qui in Italia le donne migranti quotidianamente subiscono violenze dentro e fuori i CIE, violenze che naturalmente molto spesso non emergono, poiché le vittime vivono una doppia condizione di ricattabilità in quanto donne, in quanto irregolare, mentre i loro aguzzini italiani godono di coperture e connivenze sociali e istituzionali. All'interno dei CIE, quindi, ricatti sessuali, molestie, violenze, stupri contro le donne sono proprio il pane quotidiano. Già nel 99, infatti, con l'apertura dei primi CPT, oggi CIE, si registrano ricatti sessuali e sopraffazioni razziste e sessiste, come dimostra uno stralcio del dossier sul CPT milanese di via Corelli. E per il lavoro, insomma, di osservazione e mobilitazione rispetto a queste questioni, naturalmente un ringraziamento va alle compagne di Noi Non Siamo Complici, che sono sempre attente per dare informazione, per stimolare naturalmente anche alla mobilitazione contro questi eventi. L'episodio del soldatino di piombo, che poverino era tornato stressato dalla carneficina in Iraq, a Vicenza ha stuprato e lasciato ammanettato una giovane donna nigeriana. E a tal proposito vi leggo una notizia tratta dal giornale di Vicenza del 10 marzo 2006. Soldato accusato di stupro sarà libero in attesa dell'appello. Un militare statunitense accusato di stupro e condannato a 6 anni di reclusione potrebbe essere libero dall'estate. James Brown, si legge nella sentenza, ha avuto la sua pena ridotta per le attenuanti dovute allo stress psicologico prolungato dovuto al suo incarico di 1 anno in Iraq. Le motivazioni della sentenza riportano che il prolungato stress e la ridotta importanza data alla vita umana e al benessere di coloro che lo circondano possono avere influenzato il reato. Dopo l'accusa, Brown ritornò sotto la custodia statunitense. Attualmente è nel carcere di Mannheim in Germania. Ma ora che riceverà il congedo, Brown potrà fare ritorno negli Stati Uniti in attesa dell'appello. Abbiamo in apertura di mattinata letto qualche stralcio di notizia, di queste notizie che vedono protagonisti vigili urbani, poliziotti, carabinieri, finanzieri sul nostro territorio, abusano, violentano, ricattano, stuprano. Ebbene, continuiamo ancora con la lettura di qualche notizia estrapolata dalla rete. Sono, come diceva Nicoletta giustamente, solo alcuni casi, perché sono quelli che sono stati denunciati e finiti in tribunale. Schiave del sesso in Iraq e Afghanistan. Nuovo scandalo per i contractors americani. L'indagine di una ONG rilanciata dal Washington Post accusa gli uomini della ex Blackwater. Si parla di bambine usate come prostitute e donne dell'Est Europa costrette a vendersi. La bambina irachena di 12 anni, costretta a prostituirsi nel seminterrato di Baghdad, mentre le guardie private americane fanno una colletta di pochi dollari e si mettono in fila. Le ragazze reclutate nell'est dell'Europa con la promessa di un lavoro come colf a Dubai e poi da lì dirottate e segregate nel cuore dell'Iraq. Le cameriere dei ristoranti cinesi di Kabul, che dietro le lanterne rosse nascondono il segreto che conoscono tutti. Da Repubblica 2010 Milano finisce anche la vicenda di Preziosa, la transessuale brasiliana che denunciò un pestaggio da parte di 7 agenti all'interno dell'allora CPT di Via Corelli, nel rapporto sull'Italia del Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa. Nel 2008 la 29enne Preziosa uscì in ambulanza da Via Corelli, finendo al San Raffaele con 10 giorni di prognosi dovuti, secondo la vittima e un altro transessuale testimone, ai calci di un agente e alle seguenti percosse di 6 colleghi nella sala colloqui. Ne sortì una rivolta all'esterno del centro, la liberazione della vittima e della testimone il giorno dopo, le proteste, un processo archiviato. Da noi non siamo complici. Claudio Dorazzi, ennesimo stupratore in divisa. Dopo i poliziotti che rapinavano gli immigrati, adesso la questura di Bologna deve gestirsi il caso di questo assistente capo dell'ufficio immigrazione, che per 3 anni, così dicono i giornali, ma chissà per quanto tempo realmente, ha preteso rapporti sessuali in cambio del permesso di soggiorno. Una giovane tunisina reclusa nel centro di identificazione ed espulsione di Roma, a Ponte Galeria, mostra gli evidenti segni di percosse manganellate sulla schiena e sul braccio da parte di un agente della Guardia di Finanza. Abusi su arrestata, militare in manette, comandante carabinieri violenta 11 donne, abusi per 48 ore su donna. Militare in manette. Era arrivata in Italia da pochi giorni dalla Polonia, senza conoscere una parola di italiano. L'avevano subito arrestata per un banale furto in un centro commerciale e poi portata nella cella di sicurezza di una stazione dei carabinieri in attesa del processo. È stato proprio là, in quella caserma, in un piccolo comune alla porta di Milano, che la ragazza appena 19 anni è andata incontro, stando alle indagini della procura milanese, a una terribile umiliazione. Abusata per 2 giorni dal militare più alto in grado. Così il comandante della stazione dei carabinieri di Parabiago, Massimo Gatto, 47 anni, è finito oggi in carcere per aver costretto la ragazza a subire 48 ore di violenza, ma non solo. Emerge dalle indagini che il maresciallo sarebbe anche un violentatore seriale. Nei capi di imputazione, infatti, gli vengono contestati altri 6 episodi nei confronti di altrettante donne di cui l'uomo avrebbe abusato o che avrebbe cercato di molestare. Nel 2010, Palermo, un maresciallo dei carabinieri ha investito con l'auto una giovane donna, poi è scappato. La vittima, una 32enne romena in gravi condizioni. L'uomo è ascoltato in procura. La contestazione è per omissione di soccorso e lesioni. Nel 2010, provincia di Vicenza, giro di escort. Assessore leghista si dimette, gestiva un sito di squillo. Alla luce del sole faceva il vigile e l'assessore alla sicurezza. Carabiniere uccide a coltellate la moglie, arrestato. L'uomo dopo il delitto era fuggito in moto. Dall'ANSA, approfittando della loro divisa e della qualifica di pubblici ufficiali, 2 poliziotti che in passato avevano prestato servizio presso il commissariato di Chiavari sono stati condannati dalla Cassazione a 7 anni di reclusione per aver costretto più volte delle prostitute straniere ad avere rapporti sessuali sotto la minaccia del rimpatrio. Gli abusi avvenivano nello stesso commissariato dove i 2 agenti prestavano servizio. Milano, arrestato un altro finanziere per gli abusi su prostitute immigrate. L'inchiesta ha già portato all'arresto di 5 militari. Te ricordo. concluse le indagini a carico di due agenti della polizia penitenziaria accusati di aver stuprato dei detenuti transessuali nelle carceri di San Vittore e di Bollate, abusando dei propri poteri. I due agenti sono accusati di concussione sessuale e violenza sessuale con l'aggravante di aver commesso questi reati su persone sottoposte alla limitazione della libertà personale e in qualità di pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni. E ricordiamo che abbiamo volutamente tenuto il linguaggio utilizzato dai media e dai giornali per riportare le notizie. Questa era un'altra parte di rassegna stampa che vi proponiamo, continueremo poi ancora nel corso della mattinata. Camminando,